Sara, Marsi, Enzino e alla parte tecnica Simone. Eccoci qua, di nuovo in onda, simpatici amici su Radio F, questa è la nona puntata di Piazza Alta. E ancora non ci hanno buttato fuori. Ecco, questi sono i miei simpatici compagni di viaggio, già da quando? Dal 1976 siamo qui a Radio F. È venuta infatti, un po' male. Se ci venite anche a prendere, anche a portare qualcosa da bere, non dico mangiare, no, ma mangiare acqua, perché acqua. Bere poi dire, fare, no. Baciare, lettera, testamento. Ma dallo splendido, ecco, micropile di Marsi scaldando. Iniziamo la trasmissione. Sì, no, stasera c'è da notare il mix di colori non indifferente. Lui ci prova, ce la mette tutta, però poverino. Adesso lo lasciamo scaldare perché ancora io vorrei vedere se tu avessi l'occasione di andare a Pitti Uomo. Se tu non ci sarebbe il tuo abbigliamento, ma a Pitti Uomo, se tu Uomo. Faresti le cose che e via. Marzi, ti sei incartato. Sì, volevo dire delle cose che potevano risultare anche un po' sconvenienti, ma in inizio di trasmissione non lo possiamo fare, ecco. E quindi andiamo avanti. Piazza Alta. No, non dire altro, Marzi, io ti sto ascoltando basito. Diciamo che diciamo dove ci possono ascoltare i nostri ascoltatori, vero, tanto per ma diciamo che ci possono ascoltare sugli FM 101.2, su www.mipiacetu.radiof.it e con le nostre meravigliose app per Apple e Android. Quando il cuore è convinto non sbagli mai, prova a chiedere al vento quello che vuoi. C'è chi ha detto che hai fatto dei bei casini e distratta distruggi ogni cosa, sai. E io vorrei porre ancora più bellezza. Chiedo perdono ai punti cardinali dello stare al mondo per non averli riconosciuti. Chiedo perdono a ognuna delle lacrime che non ha bevuto. Io vorrei, vorrei prenderti le mani e berci dentro. È più facile la tua purezza. Chiedo perdono alla pastorizia perché con la mia condotta ho umiliato la reputazione della pecora nera. Chiedo perdono alle stalle che meritano sempre di ospitarmi ma che evito di frequentare troppo spesso. Dormi qui, com'è facile restare sveglio. Dormi qui, ho perduto troppo tempo ma va. Dormi qui, sono piccolo per abbracciare il cielo. Tu farmi nel tuo eccoli qua, loro sono i Marta sui tubi. Un no, Marta, che io scendi, Marta, scendi, Marta, non fare così. Marta, scendi giù, è siete pericolosissimo. Delle bestie, siete veramente Marta delle sui tubi. Bestie. Marta, basta sui tubi. Parenza, allora, nuovo gruppo, eh. Sì, io vorrei ringraziare Simone che stasera mi ha messo questo brano che io adoro. Ciao Simone. Ciao. L'hai detto ciao. Il titolo della canzone? Vorrei. Ma non lo posso dire. Vorrei, ma non lo posso dire. Ho capito. Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi, ma questa è un'altra. Cioè, no, spiego agli amici a casa che Sara stasera è la più discola fra tutti. Non è e vero. Toglie il microfono. Non è vero, è che io stasera apprezzo molto la manualità. Ho una lunga battaglia da combattere perché veramente, cioè, va bene, dai. Non ho basta. Parole. Adesso, ragazzi, però facciamo i seri. Facciamo. No, non è possibile. Non si sente. Allora Marzi non si sente e pensa di aver staccato le cuffie. Invece Sara gli ha staccato il microfono. È vero. E andiamo. Non andiamo ce la avanti. Posso fare. Ecco, anch'io lì non ce la farei perché Allora, visto che Sara non ce la fa. No, ecco. Allora, come ci possono come ascoltare è. L'abbiamo detto, con però non abbiamo detto della fantastica pagina Facebook Piazza Alta. È vero. Piazza Alta. Dove imperdibile direi. Domani si troverà questa puntata se noi riusciamo ad arrivare alla fine, che è sapientemente organizzata e gestita dalla, si dice gestita, non detto. È organizzata. Dammi spazio, dammi tempo. Io vengo da molto lontano, cara. Dal 1976. Quindi, pensate quanto ci ha messo lui, per arrivare a Piazza Alta. Marzi poi è a comando, come di dal 1976. Sì, che è un anno di giovedì. Era solo giovedì. E perché mi chiederete? Perché di giovedì succedono a Foiano succedono sempre cose, le migliori cose. Sì, strane. E soprattutto succedono a Piazza Alta. A Piazza. Perché questo, insomma, la trasmissione che vi segue, vi ama tutta la settimana sulla pagina di Piazza Alta Facebook. Facebook che potete trovare gli appuntamenti per il weekend. Certo, le proposte. Che cura il nostro caro Simone. La playlist. Brava. Di questa puntata. Così poi potete andare a ritrovare gli artisti sconosciuti che noi vi facciamo conoscere. Va bene. Marta sui tubi a parte, ma perché ovviamente. Loro sono ma di che cosa parla? Aspetta, scusami se ti interrompo ancora, caro il mio Marzi. E poi la domenica, una domenica da Leone. Chiaro. Che è importantissima. La scorsa settimana abbiamo proposto il film Un sacco bello. Che era veramente un sacco bello. Ma dici, vuoi dire qualcosa? Sì, Sara? Quindi per tornare a noi, ecco, chi è che dobbiamo salutare? Guarda, intanto, ti ringrazio amici, per questa domanda molto intelligente. Ecco, se sapevo che avresti risposto te, non te l'avrei mai fatta. Altrettanto intelligente. Domanda. Io volevo salutare Enrico e Sauro. Ah, Sauro. Che chiaramente sono maschi come... Anzi che non erano Dino. Esatto. Ma a parte... Invece Enzo... Io saluto ormai una nostra... Non saprei più come descriverla. Di più, ascoltatrice, la inviteremo nel programma. Salutiamo Edi che certo. Ci segue. Ciao Edi. Grazie. È una fedele ascoltatrice grazie. Di sei Piazza tutti Alta. Noi. Grazie. Sì, soprattutto la nostra ci dà supporter. Sostegno. Bene. Abbiamo capito, sì. Marci. Salutiamo anche l'amico di Marci. Che è fighi. Che è fighi. A questo punto ecco, sembra una puntata punto, io direi di Vasariana almeno, memoria. Allora, una bocco, radiofonicamente un antipasto sull'argomento di stasera che è altrettanto storico, che avevamo già preannunciato sulla nostra pagina, avevamo dato un indizio sulla nostra pagina Facebook. Io vorrei sapere quanti di voi hanno capito, penso però, nessuno. Ma magari non si sa. Comunque continuiamo sulla stessa lunghezza d'onda della puntata scorsa. L'altra volta abbiamo parlato del Garibaldi, di questo locale che ha fatto veramente la storia di Foiano, sì, e allora perché non parlare stasera del locale che si trovava di fronte? Perché uscendo metaforicamente dai Garibaldi, prima di andare a dormire, si entrava al Medioevo. E nelle nostre ricerche storiche, e soprattutto siamo storiche, fortunati perché si tratta di un periodo abbastanza recente, siamo incappati in tantissime testimonianze di persone entusiaste di quel periodo e di quel locale, e che hanno vissuto in prima persona questa esperienza che risulta veramente unica nel suo genere. Ma gli anni d'oro, per esempio, l'anno d'oro, proprio l'anno d'oro di questo locale. A me risulta che fosse il 1976. senza luce, è un abbaglio che non lascia il conspiraglio. Tutto doma e tutto brucia, non andar la tua fiducia, la consuma in un baleno, i suoi raggi son veleno. Altezza. Certo l'aria non è più la stessa. Bene, io sono un po' stanco. Questa guerra mi costa tanto. I miei giorni sono contati, gli altri mesi sono fortunati. Dove? Però me lo fate a questo apposta. Lei che l'aspettava. Simone, per Miguel. Favore, la prossima volta la scaletta solo a me. Miguel, sono sempre lì. Ascolta, problemi, dopo Marta d'accordo? Sui tubi la scaletta, no, alla Marta Sara. Marta sui tubi non me li toccare perché guarda, okay. Cioè, ma Marta sui tubi c'è salita con la scaletta. Chiaro. È chiaro. Allora, sì, Lely non era un gioco di parole, ma il nome del gruppo che abbiamo appena ascoltato con il brano Io sono febbraio. Non sbagli mai, ma quando sbaglio io voglio sottolineare. Io sono febbraio? Io sono febbraio, questo è il titolo del che tra l'altro mi si addice perché anch'io sono di febbraio, però. Che giorno? No, questo non si dice. Dici solo il segno. Seconda decade. Acquario. Ma siamo tutti dell'acquario, certo. Qua. No. Tranne Simone. No, anche te sei dell'acquario. Che bello queste scoperte in diretta. Che giorno? Sì, dai, lo dico a te. Cari amici a casa. Ma lui no, spero bene. Sì, anche lui è dell'acquario. Io terza decade però. Io prima. E andiamo. Perfetto. E qui abbiamo perso i 15. Di che segno siete? Di che segno siete? Avvisiamo Facebook, i nostri piazzata. Ascoltatori che stasera faremo un po' tardi. Baracco e perché insomma, vedo che qui c'è sì, a proposito, siamo allora, per pubblicare la foto del segno di Simone su la nostra pagina. Abbiamo parlato del nostro segno, non ho capito. Va bene. Adesso sì. Bene, perfetto. Per tornare a noi, vi abbiamo anticipato che questa sera parleremo del Medioevo, un altro locale che ha segnato la storia di Foiano per quanto riguarda il divertimento e così via. Allora, Marcellino, pane e vino. Partiamo da una descrizione del Medioevo, concentrati, però per Benino non facciamo confusione adesso. Che cos'è stato il Medioevo? Dove si trovava il Medioevo? Un po' l'abbiamo detto, però lo spieghiamo meglio. E come iniziò l'avventura di questo locale? Il Medioevo è stato un periodo storico molto importante, collocato tra l'anno 1000 e gli anni... non era questo, scusa. No, avresti in ogni caso sbagliato. Tre a posto, no, e dai, te la sei giocata seriamente, per tutta la sera. Medioevo è stato uno dei locali più importanti della storia di Foiano, un nightclub quando ancora per nightclub non si intendeva il locale con le donnine, ma quello che subito normalmente dove potete trovare Enzino, ma un vero e proprio locale dove passare le serate di classe. Tanto solo. Ma prima di parlare del locale, diciamo appunto dove si trova. Si trova? Caro il mio Enzino, il locale rimane si trova al lì. Piano terreno. E nei sotterranei del Palazzo Neri Serneri, uno dei più antichi di Foiano, proprio di fronte al Teatro Garibaldi, di cui abbiamo parlato la volta scorsa. E questo lo avevamo già detto. E quindi mi versi un po' di cognac, per favore. Certo, adesso. Caro, vieni. Questa nostra versiliana. Ti trovo così de Noartri, sì. Con questo e via. Dicevamo di Palazzo Neri Serneri, giusto? Allora, il Palazzo Neri Serneri è risalente addirittura al XVII secolo ed è interamente, cara Sara, costruito in mattoni con portali e stipiti in pietra serena. Ma ecco, io ora passerei, facciamo parlare anche Enzino, se proprio perché dobbiamo, è lì, ora che freme, avevo preso, se no diventa rosso, vedi che diventa rosso, mi hai dato la linea. Sì, allora grazie Sara, guarda, prego, stasera senza di te saremmo in tre. Ecco, quando grazie. No, beh, proprio quando aprì il locale. Ecco, allora, intanto permettimi di ringraziare prima il, sapete che tutte le settimane abbiamo degli amici che ci danno testimonianza delle loro esperienze, e questa volta abbiamo trovato uno dei protagonisti assoluti del Medioevo, che è Alfredo Vanni, per cui lo ringraziamo per la testimonianza che ci ha rilasciato. L'idea, a proposito di testimonianza, è un'esclusiva tra l'altro, è per piazzare. Momento testimonianza. Dopo regoliamo anche i volumi, eh? Certamente. Eccoci. Non so chi fa queste interferenze. Allora, l'idea di aprire un locale da ballo nacque, cara la mia Sara, pensa, avevo nel detto mille... da sballo. Nel, oh, nel... Dai, 1972. Durante una delle tante zingarate in macchina, proprio stile Amici Miei, che il Sussi, Sergio Roghi, Tullio Foianesi, Lino Capecchi e Brisone erano soliti fare in quegli anni. Ma su questi personaggi possiamo fare prossimamente una puntata speciale. Beh, ma guarda, avremo anche io... intenzione, e ve lo annuncio, cari amici che ci state ascoltando, di fare anche una trasmissione sui soprannomi dei foianesi. E sarà una trasmissione esilarante. La stiamo preparando da anni ormai. A Foiano, tornando a bomba, a quello che stavamo dicendo, come locale da ballo domenicale era già presente da qualche tempo, e lo sappiamo bene perché ne abbiamo parlato la settimana scorsa, il Teatro Garibaldi, che era stato aperto per iniziativa di Daniele Leonardi, Dorino Storni, Poldo Del Treggia e il professor Walter Livi. E qui abbiamo anche un aneddoto, visto il successo che ebbe fin da subito al momento di rinnovare il contratto per la gestione del Garibaldi, il proprietario del teatro, preso nella trance da successo per il locale, decise di dare il ben servito ai ragazzi e di iniziare a gestire personalmente il teatro, con tanti saluti a chi c'era prima. E tanti saluti a chi e c'era via, prima. Via. Ma parlando, ecco, e adesso tanti saluti, salutiamo di nuovo i nostri ascoltatori, chi ci segue sulla pagina Facebook, e ora Enzino pubblicherà altre foto, quindi sì, continuate sto per pubblicare a una foto. L'hai pubblicato il segno di Simone? Ho pubblicato il segno di Simone del nostro regista, poi vi spiegheremo il perché. You took my cure alone. che ritmo, ragazzi. Ecco, cominciamo a entrare già in atmosfera disco. Perché, allora, questa, pensate, simpatici, pensate, amici, mi sono appisolato, no, a questo ritmo, ecco, questa musica così dolce, bella, soave. Allora, pensate che è una ragazza questa, e si chiama Ting Tiffany. Plin plin, io faccio tanta plin plin. Beh, è venuta male questa, ora ha detto male, proprio fuori perché dai denti. Perché te devi dirlo anche, perché l'hai pronunciato, ragazzi, male te, Ting, dai. Ting Tiffany. Ting Tiffany. Poi, se si dice veloce, la G si perde, quindi la mia pronuncia stavolta è stata perfetta. Baci, e il titolo niente del brano, okay, questa era buono, ma era telefonata. Questa era più crossata, La perdita della del G. Vai, vai, andiamo avanti. Vai, Sari, vai. È vero. Dicevi il titolo, analista dice di non guardare però al passato. No, il tuo analista ti dovrebbe consigliare di non pensare, cioè, no, proprio... ma il mio problema è proprio quello, capito? Che non penso e quindi sono così. Quindi la ting ting che ci dice, rin tin tin che ci dice. Comunque diciamo almeno il titolo del brano, mi sembra, insomma, doveroso, per direi, correttezza, dopo il grande successo in Germania di questa cantante. Sì, perché questo è un fuori onda che lui è ha captato, verità, mentre dormiva ha captato questa cosa, perché Simone ci diceva che questa artista e musicista di Padova è molto conosciuta e apprezzata all'estero, quindi guarda, gli è arrivata sta cosa della Germania dopo le galline padovane. Comunque il titolo del brano era Show Me What You Got. Show me. Tu hai capito che vuol dire, vero? È chiaro, ma ora sarebbe, guarda, sembrerebbe offendere la tua intelligenza tradurre quello che hai detto. Certo. Dicevamo e allora torniamo a Foiano. Torniamo a Foiano, torniamo a parlare di uno dei locali di Foiano dove ci si divertiva. E come allora, fu? Come non fu? Com'è? Come non è? Abbiamo detto che chi è? Fammi fare la domanda, poi parti. E io ti ringrazierò per questa domanda. Ti voglio ringraziare a priori, guarda. Facciamo così, ti si ringrazia ora per tutte le domande che ci fai stasera. Grazie, Sara. E quindi abbiamo detto chi ha aperto il locale, però perché si chiamava Medioevo? E come nacque il locale? Ecco, Marzi allora, non è preparato, Enzino salvaci tu. Lo dico io, Sari. Allora, dicevamo appunto che gli ideatori furono il Sussi, Sergio Roghi, Tullio Foianesi, Lino Capecchi e Brisone. Il primo però a farsi da parte, perché non molto convinto del progetto, un best di beatlesiana memoria, il primo a ritirarsi fu Brisone. Sì, ma io dico cose intelligenti, ma voi non mi ascoltate. Ma meno male che ci ascoltano da casa, ma tanto lo so. Allora, gli ho altri capito, quattro... ma se non ci spieghi perché. Aspetta, ora te lo dico. Gli altri quattro decisero invece di proseguire con l'idea di aprire questo locale, un locale da ballo, e andarono a visionare la cantina di Palazzo Neri Sierneri, appunto. All'epoca ancora di proprietà, pensate, dei discendenti della nobile casata di origini senesi. La cantina, però, era in condizioni di totale abbandono e presentava al suo interno molti elementi d'arredo antichi, tra questi uno splendido scrittoio del Cinquecento che fu prontamente sistemato e riutilizzato come bancone del bar. Quando si dice non si butta nulla e anzi, si valorizza quello che si ha, chiaramente su un pezzo d'antiquariato che poteva valere decinaia e decinaia di milioni venivano serviti il VOV e quant'altro. Certo. Il VOV, perché poi lì ma bravo. La caratteristica però più dei picchi, dei picchi, sì, esatto. La caratteristica però più importante riscontrata nella cantina fu la presenza di anfore. Cara Sara, tu che non sei avvezza, le anfore sono degli ziri che noi abbiamo trattato però anche in un'altra puntata quando parlavamo di Vasariana Memoria. Di Vasariana Memoria. Certo. Queste anfore erano incassate nel pavimento, chiuse da coperchi, dove anticamente veniva gettato e depositato il grano direttamente dalle aperture laterali a bocca di lupo presenti sui lati del palazzo. Bocca di lupo? Uno dei pochi ziri che si riuscì ad estrarre dal pavimento fu collocato vicino all'ingresso del locale e usato come posa cena. Anche questo riutilizzato venne quasi un simbolo, perché non si butta niente. Per ottimizzare le risorse poi il locale fu arredato in economia, ma con inventiva e gusto come proprio dei Foglianesi. Tu sei nato altrove. Infatti in me c'è questa inventiva, il gusto. Sì, sul mi gusto pervade. Il tuo pile di stasera la dice lunga. Infatti non viene da Foiano questo, viene da molto molto lontano. Immagino. Per le pareti fu utilizzata una tappezzeria bordeaux e bianca e furono utilizzati molti specchi per dare profondità al locale, facendolo così sembrare più grande. Proprio per ridurre le spese, molti dei lavori di ristrutturazione furono eseguiti dagli stessi Sussi e Roghi, Foianesi e Capecchi, che si improvvisarono tappezzieri, imbianchini e piastrellisti. Sì, ma il nome... Sì, ora te lo dico. Però non devi essere come così. Sei impaziente, guarda, c'hai l'ansia da prestazione. No, quella è una cosa vostra. Prettamente maschile. Quello che ho detto, sì, Sara, è talmente importante che è un messaggio. Il foianese che si rimbocca le maniche per creare. È fondamentale questa cosa. Bene. Il foianese che lavora. Ci fa piacere, ma tu vieni infatti da è sparita questa un altro paese, so. Quindi... Allora, il nome del locale che Sara tanto brama... Qual è? Allora, dici cara l'origine. Abrama ed Eva, il nome del locale fu ispirato dal fatto di trovarsi, come appunto abbiamo descritto finora, all'interno di un palazzo antico e anche parte dell'arredamento, come ad esempio le cornici e gli specchi, furono scelti in funzione di un certo stile medievale che ne richiamasse lo stile. Di Varazzariana memoria. Ed ecco che Vasari, ovviamente venuto dopo, si è ispirato e ha fatto il Medioevo. Wow. We can do without. Sir De Kerr. Ma come si fa? Il ritmo giusto per una trasmissione sbagliata. Allora, Boxer De Kerr è uno dei Boxer De Kerr. De Kerr, a me il pugile del cuore. Ecco, senti come l'ha detto, il pugile del cuore. A disprezzo proprio. No, no, io adoro questo genere di musica. Se sarà capito, comunque, no? Boxer De Kerr è uno dei progetti di Paolo Iocca. Che viene da Filadelfia. E quindi voi volete finanziare la ricerca? Cioè, sono soldi spesi male, è un progetto. No, no, è venuta benissimo. Io direi di tagliare fondi alla ricerca. Ah, la ricerca. Ok. Iocca? Sì, Iocca. Pare Iocca? Che stia facendo una tournée in tutta Europa con i Sedanus. Sedanus e Iocca. Un'altra concorrente è Filadelfia. Ridi solo. No, ha detto che viene da Filadelfia. Te l'ha già bruciata. Scusa. Vedi, sei distratto. Non seguo. Ma prima di andare avanti, salutiamo degli amici che si sono iscritti in questi ultimi giorni alla nostra pagina Facebook, che sono Marisa, Simone, Marco, Lisa, Margaret, questa è Margaret, hi Margaret, Silvia, Maurizio, Alessandra, eccetera, eccetera. E via, e via. E salutiamo anche il nostro amico Gira pagina Leonardo. Da... no, è solo amico mio. È chiaro che è Leonardo Pieraccini. No. Sì. Ha detto allora. Riccardo. Oh, scusa. No, Leonardo. Leonardo. C'è tanto di fotomontaggi in giro su web di Enzo con Leonardo. Sui nomi e sulle persone, cose. Rapporti di parentela. Andiamo no, alla grande. Sì, sì, andiamo alla grande. Allora, via, torniamo parlavamo del Medioevo, quindi torniamo lì. Allora, dopo aver visto come si sono svolti i lavori, quello che è stato recuperato, quello alzi che non è stato recuperato, quindi dopo vari lavori, come ci fu l'apertura del locale, perché per un locale, insomma, la serata di apertura è un evento, e soprattutto come furono i primi anni di vita del Medioevo? Come furono? Come non furono? E perché è importante, caro il mio Insino? È importante, dimmi, Marzi, perché il Medioevo è risultato come un locale quasi di rottura da quello che era considerato il dopo cena, la discoteca e il modo di ritrovarsi di quegli anni. Prego, Enzino. Cioè, questa è veramente una carognata. Comunque non importa. Ma va? Allora, l'apertura quindi fu proprio una rivoluzione. E infatti, ad esclusione di alcuni locali, tipo il Torchio a Monte San Savino, era l'unico e vero proprio altro nightclub presente in Valdigliana. Di permanenza. In terza media. Tutte le altre sale da ballo presenti in quegli anni, infatti, erano dei semplici stanzoni ricavati all'interno dei locali parrocchiali o dei circoli arci. Così abbiamo dato un colpo alla botte, al cerchio, e un colpo alla botte. In questi stanzoni tutte le sedie erano sistemate lungo le pareti, e durante i balli le mamme erano spesso sedute accanto alle figlie con il preciso compito di controllare e accontentare ai corteggiatori delle stesse. Prego. Proprio per quel motivo il Medioevo fu tra i primi locali della zona, se non addirittura il primo, a rompere con la tradizione. Al Medioevo infatti si andava per ballare, per incontrarsi, per parlare e per passare qualche ora in un luogo finalmente alla moda e diverso dal solito. E per essere liberi anche. Free, molto free. Molto free. Without the mother. La clientela infatti andava dai 20 anni in su. Non c'era né selezione all'ingresso né butta fuori, ma l'etichetta e la consuetudine del locale imponeva che si andasse sempre vestiti in maniera molto elegante. Era insomma un locale di rango. Talmente di rango, che alcuni iniziarono a definirlo quasi ambiguo. Addirittura nacquero infatti, pensate come fu, come non fu, alcune leggende secondo le quali fossero presenti dei letti appesi al soffitto pronti ad essere calati qualora gli incontri fossero andati un po' oltre. Chiaramente dalle nostre ricerche storiche tutto ciò non risulta. Però ci realtà, piace infatti, pensarlo che lo fosse. In realtà era semplicemente un locale elegante, piacevole e dove si stava molto bene. Per i primi 2 anni di vita il locale non ebbe comunque un grande successo e i due soci fondatori, il Foianese e Capecchi, se ne tirarono fuori. Rimasero quindi alla guida. Facciamo Sussi i conti. Ed il Roghi. Ecco, bravo. Il Roghi e il Sussi. E racconta sempre il nostro amico Alfredo. com'è, come non è, il locale iniziò ad andare sempre meglio, fino a quando nel 1977 ci fu l'esplosione definitiva. Ed è proprio di quell'anno, infatti, l'uscita nelle sale cinematografiche di tutto il mondo del film. Riprendi fiato, perché questo va detto bene: The Night La febbre Fever. Il sabato sera. Il famoso film con John Travolta, che tutti noi chiaramente abbiamo vissuto. Noi ci ispiriamo. Vorrei sapere perché si è fermato a John Travolta. Perché dici di chi era? Perché questo non film? Mi fido. Marzi, dici di chi era questo film? Il regista, ma è importante. Ci sono delle notizie che sono importanti. No, no, storicamente no, no. Lo devi dire. John? A me risultava fosse John Badham. Bada come gli è andata bene stavolta. Allora, il cui contributo a livello mondiale di questo film, non di John Badham, cioè, per il definitivo successo delle sale da ballo sarà determinante, e lo sarà anche a Foiano. Yeah. Dalla Germania, questi sono i Vibravoid con Optical Sounds. Dalla Germania sono sempre venute cose belle, non c'è niente da dire. Ci sarà un motivo per cui Marzi, secondo te, questo che genere musicale era? Io molto psichedelico, molto psichedelico. Un po' punk. Un po' gira, falla passare. Mettiamoci dentro anche un po' di jazz. È ripartito bene. Jazz no, è un'altra cosa. Un po' farla girare. Per gente intelligente, un po' punk, un po'. C'è delle contaminazioni, sì. Sei un po' contaminato. Ecco perché non... Chi erano? Così li escludo. I Vibravoid, l'ho detto. I Vibravoid. Escludi dalla mia playlist. E comunque, ecco, il genere più o meno era quello, insomma. Quale? Quello psichedelico. È ripartito bene. Ho detto anche il titolo, la ma non mi ascolta nessuno. Non sto in ascoltando. Vabbè, picchia. Ragazzi, chi si passa? Il programma non si faceva io solo. Ragazzi, ci siete? Welcome. Ci siete? Dal, ma non ci siamo da ora, eh? Pi, pi, pi, pi. Ci siamo dal 1976, Radio F, la radio amica. Ciao. Bene. Ciao. Permettimi di salutare ancora degli sì, amici? Certo. Sì. No. No, ho sbagliato, no. Avanti. Ecco, grandioso, fantastico. Allora, dicevamo Saturday Night Fever. Parlavamo, esatto, del film La febbre del sabato sera. Yeah. Che grazie a John Travolta travolse il mondo intero. Lo mondo intero. E questa scia, insomma, di luminoso. Rivoluzione, di cambiamenti arrivò anche a Foiano. È vero, credetemi, è vero. Dunque, ti ringrazio, Sara, per questa. Ti ringrazia lui e rispondo io. Pensa un po'. Grandioso, perfetto. Infatti, che... Alfredo Vanni, che ringraziamo ancora per la testimonianza che anche ci ha rilasciato, lui. E non solo ringraziamo lui, ma ringraziamo anche sua moglie Sandra e il grandissimo Lucianino Menchetti, tutti che ci hanno rilasciato delle testimonianze per cui riusciamo questa sera a fare la trasmissione. Quindi la trasmissione la fate voi, non la facciamo noi, ok? Dicevo, questo era chiaro. Ok, continua Alfredo il suo racconto dicendoci che fino a quel momento, infatti, il momento del ballo era la domenica pomeriggio, anche perché spesso le famiglie non facevano uscire le figlie la notte e di conseguenza anche i maschietti se ne stavano a casa. Ma dall'uscita del film in poi ci fu un vero scossone sociale e cambiarono i costumi. La gente iniziò ad arrivare da Siena, da Arezzo e in generale da tutta la Val di Chiana, e succedeva spesso che, già dopo neanche un'ora dall'apertura, al Medioevo non ci fosse più possibilità di entrare per quanto era pieno. Infatti il locale non poteva contenere grandi numeri di persone. La capienza era di circa 200-250 persone. Il Medioevo pose fine ai locali da ballo così, di vecchia maniera. Fino all'evento dei disc jockeys. Ma non l'evento. Era, come dire, l'avvento. Cioè, ci fu un evento, no? Arriva un disc jockey. Sì. Evento! Poi, questo dopo però. Però diciamo che fino all'avvento. Se mi fate dire due parole. Fino all'avvento. Deve riprendere fiato. Fino all'avvento dei disc jockeys. Così come avveniva a Garibaldi, anche al Medioevo si esibivano i complessi. Rilassati. Aspetta, Marzi, e ci vogliamo, ci vogliamo fermare un attimo e parlare dei complessi di Marzi. Di Marzi, certo. No, questo sì. Ancora fa parte della cartella clinica, che non è ad uso pubblico. Solo postuma sarà aperto. Tra questi ovviamente c'erano gli Angeli Blu, ma anche i Delfini di Siena. Beh, all'epoca molto famosi in zona. Il Sussi e il Roghi strinsero amicizia con l'impresario Coppini di Firenze, che contribuì al successo del locale, portando al Medioevo numerosi cantanti e personaggi famosi dell'epoca. Del calibro di? Negli anni, cara Sara, si esibirono nel locale Paolo Panelli e Bice Valori. Beh, guardate che Mia Martini, Lelio Luttazzi, pensate voi. Romano Mussolini e la sua band, Franco e Ciccio, e furono ospiti d'onore Franco e Ciccio. Mario Cecchi Gori, Ferruccio Valcareggi, che era commissario della nazionale italiana, e le rispettive signore, ma anche l'attore Giorgio Ariani e il duo Mario e Pippo Sant'Anastasio. Grandissimi nomi, ma anche Pico e Bob Rose e altre importantissime orchestre come Guido D'Andrea di Firenze. Quindi voglio dire, si sta parlando di un che all'epoca erano nomi anche importanti, importantissimi, di un certo peso. Ma continua. Celebre poi fu anche la presenza, che è durata addirittura un mese, di Fred Bongusto e la sua orchestra. Una rotonda sul mare. Bom, bom, bom, bom, bom, bom. Dal 1977 i complessi iniziarono ad essere sostituiti dai DJ, e tra i primi a mettere i dischi ci fu proprio Luciano Menchetti. Un saluto. Che nella nostra che nella storia del locale è ricordato come il disc jockey del Medioevo. Ma ci sono anche stati dei clienti fissi che hanno fatto la storia del locale, tra cui l'ingegner Quinati e il pittore Villoresi. Ma c'è da dire ancora una cosa: l'orario di apertura, di cui non abbiamo ancora parlato, abbiamo detto che era la sera, il sabato sera, e si andava da un'apertura del 21:30, pensate, un orario in questa epoca assurdo. Altri tempi. e la chiusura era a Luna ed era considerato un locale rivoluzionario. Adesso prima di Luna, già a Luna era tardi. Esatto, prima di Luna non ci vestiamo nemmeno per uscire. Per i clienti abituali addirittura Marzi dorme a quell'ora. Ma alle 9.30, alle 21.30 sono al secondo sonno. Lui guarda prende. No, ma io prendo la pasticca verso il giorno dopo. Per i clienti abituali addirittura si arrivava alle 2-3 di notte, proprio per i più intimi. E a quell'ora si apriva una bottiglia di spumante per festeggiare, vero? Dunque, per chiudere la serata in bellezza. Il locale certo. Poi veniva anche affittato per feste private. Tra queste sono celebri quelle scolastiche organizzate dai ragazzi di ragioneria, scuola che proprio Alfredo e figlio del Sussi frequentava. E celebri sono anche i cosiddetti indiani. Cioè Marzi, dici erano, Marzi. Gli indiani, caro Enzo, erano gli amici di Alfredo che cercavano ogni tanto di scroccare qualche ingresso gratuito, proprio grazie alla sua amicizia. Dopo Luciano arrivarono altri disc jockeys, tra questi Augusto Gallorini, che lavorava nel locale anche come barman, quindi conosceva un po' l'ambiente. Importanti erano anche le cameriere, questo è un argomento che so che sei sensibile. Diciamo che le cameriere, soprattutto era importante il loro abbigliamento, caro il mio Marzi. Erano tutte rigorosamente in minigonna. Vedi, e Alfredo, come cambiano i costumi? Dei costumi qui, il costume, e qui i costumi se lo toglievano. Sì. No, sto scherzando, per l'amor di cielo, ci mancherebbe Dio. Allora, per l'amor di cielo, senti come parla. È ormai uno slang, certo. Erano tutte rigorosamente minigonna, diceva. C'erano anche cameriere che sono rimaste nella storia, nella memoria. Yvonne e Silvana, amici. Yvonne e Silvana, niente proprio di meno che. Yvonne, tra l'altro, era una cameriera americana, sorella del cantante di uno dei primissimi gruppi ad esibirsi nel Medioevo. E particolarmente, ci dice il nostro Alfredo, avvenente e bellissima. Black Hills, questo è il titolo del brano dei Gardens and Villa che abbiamo appena questo ascoltato. È stata conciliante. Beh, è un sound, un groove, però un sei ostile, non te ne va bene una, insomma. Vuoi cantare una rotonda sul mare? È musica emergente questa. Io sono rimasto all'emergenza. No, io sono rimasto ci vuoi dentro proporre al Medioevo un quando pezzo c'era... di Mia Martini. Ora mi preparo e potrei riservare delle sorprese, cara Sara. Beh, a posto. Torniamo nell'atmosfera del Medioevo, perché a me piacciono tanto questi racconti, davvero, perché comunque e pensa che sono anche tutti veri. Appunto, infatti il bello è proprio quello, che vengono date testimonianze di persone, insomma, che ti hanno dirò, cara Sara, ce l'hanno io raccontato. Queste informazioni le ho anche verificate con altri soggetti. Ma tu non ci sei mai andato al Medioevo? Sì, sì, ci ho fatto anch'io, però tu eri uno di quelli ziri. Signori e signori, battutona di Sara. E the Oscar goes to Sara. No, ti dicevo che io ci sono andato, ma per breve periodo, perché diciamo la mia giovane età, il tuo analista non te l'ha più permesso. All'epoca non andavo ancora dall'analista, mettevo da parte materiali da studiare. Comunque via, ragazzi, allora mi raccontate qualche altra curiosità legata al Medioevo? Inizio io perché non ho più voce, così dico le ultime cose e poi vi saluto. Si sta spengendo, il che è tutto dire. Purtroppo una fervida attività canora. Mi sembra che l'attività radiofonica sia proprio adatta a te. Esatto, ora perché stasera c'è un abbassamento di voce. Dai. Allora, intanto Sara, non so come ringraziarti per quell'ennesima domanda arguta, direi così. Arcane. Vero? Vero. Vai. Vero. Allora, il locale rispondi, era... così mi ringrazi. Il locale era... Curiosità, il locale era costituito... da una grande stanza centrale, sì, dove si ballava, più tre trentini. Resetto, più tre stanze laterali dove si trovavano rispettivamente A, il bar, B, due sale dette di conversazione, C, barra. In queste si poteva rimanere a parlare, tra l'altro io mi ricordo, perché anch'io negli ultimi tempi del Medioevo l'ho frequentato più che altro per feste di ultimo dell'anno, e quindi mi ricordo si rimaneva a parlare senza che la musica fosse di troppo disturbo. Una di queste grotte è passata alla storia come l'angolo di Popov. Il nostro caro Augusto Olivieri pare infatti che l'affittasse sempre per i veglioni dell'ultimo dell'anno. Per le feste non c'era verso, l'affittava sempre lui, ci dice Alfredo. Sopra la pista era stato ricreato sopra la pista era stato ricreato una sorta di finto soffitto a cassettoni che abbiamo pubblicato alcuni minuti fa sulla nostra pagina, usando delle piastrelle di plastica. Al lato di queste si trovavano invece i divanetti. L'orario di apertura era subito dopo cena, non si andava in discoteca dopo mezzanotte come a luna, appunto, come abbiamo detto anche prima. Tanto che Alfredo ricorda come il padre, il Sussi, si facesse di corsa la barba e sollecitasse l'Emilia, la moglie, per far veloce a preparare la cena, perché lui doveva correre al locale. Emilia, dai! Grande attore! Ah, per capire cosa era il Medioevo è importante e necessario raccontare che le famose cene di mezzanotte, anche le famose cene di mezzanotte, l'Emilia si metteva ai fornelli della cucina del Medioevo e preparava i suoi celebri tortellini al ragù. Questi venivano poi offerti ai clienti. Erano proprio altri tempi, veramente bello, ragazzi. Un peccato non averli potuti vivere. E si ricordano anche i crostini rossi piccanti, ai quali collaborava anche la mamma della Sandra, futura moglie di Alfredo, che allora ne era la fidanzata, cara Sara. Alfredo, e così abbiamo ricostruito tutta la famiglia. Ricordo ancora anche le pochissime scazzottate, perché essendo un locale VIP non è che diciamo si facesse mancare nulla. Erano poche e quasi sempre tra l'altro scoppiate, se ben mi ricordo, a causa di sua, di Alfredo, e di Fastello contro gente degli altri paesi. Però in realtà, Marzi, com'era il locale? Molto tranquillo. Molto. Ed era davvero rarissimo incappare in situazioni di questo tipo. Infine le locandine, che abbiamo già preoccupato precedentemente pubblicato. Siamo e ho fatto una sintesi precedentemente pubblicato preoccupato. Grandioso, certo. Ma è vero che voi ascoltatori potete semplicemente staccare la radio, io poi lo devo anche riportare a casa. cioè, io... come? Allora, no, le locandine del locale. No, perché non ci si capisce più niente qui tra, infatti, appunto. Le locandine del locale. Sì. Come erano, Marzi? Bellissime. Cioè? Colorate. Lui c'era una in camera. Erano molto curate e legate sempre ad un certo gusto artistico, elegante e raffinato. Alcune sono state addirittura realizzate da artisti molto noti dell'epoca, come Mino Maccari. Something's wrong, 'cause my mind is fading. And everywhere I look, there's a dead end waiting. Temperature is dropping at the rotten oasis. Stealing kisses from the leprous faces. Heads are hanging from the garbage man trees. Mouthwash, jukebox, gasoline. Pistols are pointing at a poor man's pockets. Smiling eyes ripping out of his sockets. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Love machines on the sympathy crutches. Discount orgies on the dropout buses. Hitching a ride with the bleeding noses. Coming to town with the briefcase blues. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Devil's Haircut, questo è il titolo del brano, il ritornello l'ha ripetuto varie volte e l'artista è Beck. Ma sai che cosa stavo pensando? Che probabilmente musica di questo genere al Medioevo in quegli anni andava sicuramente. Per me l'avrebbero passata, certo, perché era un locale alternativo, di rottura, rivoluzionario. E quindi, simpatici amici miei, in questi ultimi... minuti che ci rimangono di vasariana memoria, sì. I minuti? Sì, sì, anche i minuti sono di vasariana. Anche i minuti. Va bene. Allora, vorrei sapere, ragazzi, qual è stata la fine, insomma, la conclusione di questa bella esperienza di questo locale foianese in Medioevo. Ma prima di dirti questo, ti voglio chiedere un attimo, perché voglio ringraziare ancora alcuni amici che ci stanno ascoltando. Enzino, ringrazi sempre, aspetta, rispondiamo, si ringrazia dopo. Via, fallo, dai. No. Enzino, no. Ti dirò. No, rispondi, tu rispondi. Sarai dopo. Stupita di questa risposta che ti do. Non fai dopo. Tu mi hai domandato quando ha cessato la sua attività. Ora nel cessato... 1986 il locale Medioevo, in seguito all'avvento di discoteche più grandi e più vicine ai nuovi standard richiesti dall'epoca, tra queste ricordiamo il Mirage, il Jump, l'Apogeo, perse il suo appeal e fu venduto al Gallorini. già barman del locale, e al Navini degli strumenti musicali di Castiglion Fiorentino. Gallorini detto Bibò, importantissimo, esatto. Importantissimo. Il locale non ha comunque più ritrovato lo stesso successo di quegli anni. È passato attraverso varie numerose gestioni, tra tutte ricordiamo quelle in cui si chiamava Diva Club, ed era, caro il mio Marsi, a tutti gli effetti un night, con l'accezione che tutti noi oggi, cara la mia Sara, gli diamo. Stavolta sì, Sì. Però forse solo in quella stagione lì del Diva ha avuto, seppur in modo mille volte minore, un po' di successo, ma ovviamente non si avvicinava in nessun modo allo stile del locale che fu. Beh, sicuramente famosi e ripetuti erano gli episodi della nuova tipologia di clientela che, arrivando a Foiano in cerca del Diva Club, chiedeva indicazioni, ma avendo un po' di pudore, anziché chiedere del Diva Club, nel Diva Night Club, chiedeva testualmente dove si trovasse un certo pub che si chiamava Diva. Oggi, come dicevamo, i locali, così come l'intero palazzo Neri Serneri, sono di proprietà di Val d'Ambrini e vengono affittati per feste private. Per chiudere, ringraziamo ancora una volta Alfredo per quanto ci ha raccontato, ma chiudiamo con una considerazione personale. Falla con il cuore, Marzi. Senza dubbio gli anni 70 hanno visto Foiano come protagonista assoluto della zona. Garibaldi, Medioevo, Cinema Apollo, di cui parleremo poi anche nelle prossime puntate, e tanti altri locali ne sono la testimonianza. A noi di Piazza Alta piace ricordarli così come erano. A chi li ha vissuti? E raccontarli a chi è troppo giovane, essendo troppo giovane ancora non c'era, con la speranza che un giorno, e speriamo non troppo lontano, il nostro paese torni agli splendori che gli si addicono. Che bel pensiero profondo. E ora pensa, guarda come te la lancio. No, non me lo dire. Su queste note non così bellissime. Abbiamo finito. Enzino, no. No, saluto gli ultimi, alcuni altri amici. Ora ringraziamo. Allora, Rachele, Clara, Simone Morzelli e tanti altri che ci hanno ascoltato. Ringrazio anche voi che mi avete sopportato, cara la mia Sara, caro il mio Marzi, caro Simone, cara Radio F. Ma dite qualcosa ma a noi. Ma noi ringraziamo anche te, Enzo, sì, solo perché esisti. Enzino, che ce la mette veramente tutta, segue la pagina Facebook, segue tutto. E allora noi vi diamo appuntamento a giovedì prossimo con finita la decima puntata di Piazza Alta, e domani per riascoltarci sulla nostra pagina Facebook, dove troverete la puntata che andiamo a chiudere. Esatto. Allora, Radio vi facciamo un saluto dal 1976. Avete ascoltato Piazza Alta, un programma di e con la Sara, il Marzi, l'Enzino e alla parte tecnica il Simone.